Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati, Enzo Argante, il traghettatore. Siamo su Ferry Boat e gli ospiti di questa settimana fanno parte del banco. Per una volta però non è né il banco del salumiere, sarebbe troppo poco, e neanche quello in alto, molto in alto, quello finanziario. Stiamo scherzando, in realtà si tratta di banco alimentare, banco informatico, tecnologico e biomedico, banco farmaceutico, banco building. Sono società che fanno beneficenza, quella con la B maiuscola, e il no profit con la N e la P maiuscola. L'opulenta società occidentale le chiama eccedenze alimentari. In realtà per molte popolazioni del mondo vuol dire sopravvivenza. Computer, scrivanie, stampanti, materiale edile, elettrico, oggetti che possono aspirare ad una seconda vita nel non profit, per non parlare di apparecchi medici ancora buoni per gli ospedali del terzo mondo. A Napoli lo chiamano il caffè pagato, una tazzulella lasciata in omaggio al primo bisognoso che ne fa richiesta. Il banco ha pensato di farlo con i medicinali in farmacia. Ha funzionato. Abbiamo parlato tante volte di spreco in Ferry Boat. Abbiamo parlato tantissime volte anche di ingorgo, il nostro amico sociologo Giorgio Triani e il suo libro. In realtà forse non abbiamo mai sottolineato a dovere e a sufficienza che quando si parla di sovrapproduzione, di eccedenza, vuol dire che c'è una produzione di oggetti o di risorse alimentari che poi vengono letteralmente bruciate e che invece possono dignitosamente aspirare ad una seconda vita, che è forse più importante della prima, perché la prima è appunto il frutto della società dell'opulenza, come l'abbiamo chiamata nel sommario. La seconda vita spesso è questione di sopravvivenza, per esempio il banco alimentare. La giornata nazionale della colletta alimentare nasce nel 1987 in Francia. In Italia la prima edizione è datata 1997, con un primo risultato di 1.600 tonnellate di alimenti raccolti. Nel 2009 si arriva a quasi 9.000 tonnellate, coinvolgendo 700 aziende alimentari, 7.600 punti vendita e 100.000 volontari. La giornata nazionale della colletta alimentare si tiene l'ultimo sabato di novembre, un appuntamento concordato con la Fédération Européenne des Banques Alimentaires, e che ormai è diventato tradizione internazionale. Con noi a bordo c'è Marco Lucchini, che è direttore della Fondazione Banco Alimentare. Eccoci Marco Lucchini, salve. Salve a voi, grazie. Allora, abbiamo parlato nella scheda della giornata nazionale della colletta alimentare, che è solo uno degli aspetti, una delle iniziative, magari forse fra le più importanti, di un'attività intensa che copre tutto l'anno. Sì, sicuramente diciamo che è l'evento più visibile. Se andiamo invece a parlare in termini di volumi di attività, è solo il 15%, perché poi tutti i giorni il nostro scopo invece non è quello di chiedere donazioni ai cittadini attraverso appunto le collette, ma recuperare quei prodotti che vengono chiamati appunto eccedenze, perché non diventino spreco, cioè non vengano buttati via, ma essendo che sono ancora ottimi, buoni, possono essere donati alle associazioni che in Italia aiutano le persone più bisognose. E stiamo parlando ovviamente di merce non deperibile o anche? Cioè, di tutto. Facciamo qualche esempio, direttore. Freschi, purché siano ancora di ottima qualità. Non possono essere venduti magari per scelte commerciali, di confezione, di promozioni, ma non perché il prodotto non sia buono. Ecco, dov'è che l'andate a prendere? Allora, intanto chi va a prendere? Sono i volontari, no? Noi abbiamo attualmente in Italia 21 magazzini più una piattaforma che è a Parma, che serve nei momenti di massima capienza soprattutto i banchi alimentari del centro nord. Abbiamo mezzi, camion, camioncini, furgoncini, e andiamo o presso le aziende delle imprese alimentari a ritirare appunto questi prodotti, oppure invece ultimamente anche nel supermercati, ortomercati, cioè arriviamo fino al prodotto fresco, e ulteriormente da qualche anno anche nelle mense, col progetto City Cibo, appunto anche i piatti pronti che nelle mense aziendali e scolastiche non vengono consumati, ma anche in questo caso perfettamente commestibili. Ecco, della dove... prima parte ritiriamo e consegniamo presso i magazzini e poi dai magazzini vengono le associazioni a ritirare. Il progetto City Cibo invece, dato che il prodotto è molto fresco, si ritira e si consegna direttamente alla comunità, all'associazione che ha bisogno. Le associazioni che vengono a ritirare questo cibo sono italiane, operano in Italia e a chi e anche all'estero? Solo in Italia, noi aiutiamo le persone povere e bisognose in Italia e aggiungo che gli italiani che usufruiscono diciamo dei nostri alimenti e quindi che si rivolgono a queste associazioni sono più del 70%. Cioè c'è un sommesso, diciamocela tutta, perché non è che si veda, in realtà la società opulenta non... non si vede proprio grazie anche al lavoro, noi stiamo aiutando più di 7.000 associazioni, devo ammettere che questa ricchezza di patrimonio che è il mondo del no profit, il mondo delle opere caritative, è veramente una ricchezza enorme per il nostro paese, che ha una tradizione millenaria, che ci permette proprio di non trovare poi queste persone, tenga conto che la stima che noi abbiamo fatto è che noi... diamo un contributo alimentare a circa 1.300.000 persone, quindi vorrebbe dire che senza questa realtà dove poter andare alla mensa, ricevere la spesa a casa o la comunità di accoglienza avremmo questa molte gente, molte più persone per strada. Questa gente avrebbe problemi di sopravvivenza molto seri. Viene da chiedere, è spontaneo, viene da chiedersi se un meccanismo del genere non possa essere attivato per quei paesi, soprattutto africani, dove il problema alimentare è veramente enorme. Certo, guardi, le dirò perché sono stato ultimamente sia in Sud America che in Africa. Il tema lì è esattamente non tanto l'eccedenza che diventa spreco perché purtroppo c'è anche lì, è proprio la mancanza di questa fitta trama di rete di associazioni che possono accogliere le persone bisognose, per cui c'è un gap enorme tra chi ha bisogno e chi potrebbe aiutare. Cioè lei sta dicendo che potrebbe anche esserci la rete che porta il cibo fino a lì, ma non ci sono le associazioni lì che possono fare da interfaccia? No, diciamo che non serve portarlo fino a lì. Io vedo l'esperienza sudamericana. Negli ultimi 10 anni i supermercati ci sono, le imprese ci sono, quindi da lì si prende la fonte. Il problema è che stanno crescendo le associazioni che poi si occupano di accogliere queste persone. Se prima avevi 100.000 poveri sparpagliati in una città, oggi crescendo il mondo del no profit, questi hanno dei luoghi dove poter andare. Allora il Banco Alimentare, che aiuta questi luoghi, queste associazioni, ha più facilità anche di recuperare dalle imprese alimentari, dai supermercati, il cibo. È proprio quella ricchezza che dicevo tipicamente italiana, europea, di una tradizione di accoglienza, di carità, che in quei paesi non c'è, e quindi crea anche una difficoltà, ad esempio, a un Banco Alimentare ad esistere. Grazie direttore per averci raccontato questa bellissima storia, buon lavoro. Buon lavoro anche a voi, grazie. Noi continuiamo, dopo il Banco Alimentare c'è un altro banco, si chiama BiTeB. Il Banco Informatico, Tecnologico e Biomedico raccoglie attrezzature d'ufficio usate e ancora funzionanti, PC, monitor, stampanti, e le distribuisce ad Onlus, enti educativi e formativi, opere sociali di carità. La divisione biometrica del BiTeB, invece, cerca apparecchiature sanitarie dismesse dagli ospedali italiani ma ancora funzionanti e le dona agli ospedali dei paesi più poveri. Non solo, si occupa anche dell'assistenza tecnica a 360 gradi per aiutare gli operatori locali a utilizzare le apparecchiature in autonomia e a mantenerle in efficienza nel tempo. Il nome è difficile, BiTeB, però quello che fa è veramente semplice e anche straordinario. Stefano Sala è il direttore del Banco Informatico, Tecnologico e Biomedico. È con noi. Salve Stefano Sala. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Quindi in breve, adesso è chiarissima la scheda, credo, ma insomma da una parte gli strumenti e strutture che servono a far funzionare meglio le associazioni, le aziende, le imprese Onlus, dall'altra però questa incredibile e appassionante opera di solidarietà nei confronti degli ospedali del terzo mondo. Sì, diciamo questo, che il Banco Informatico ha questo denominatore comune, il fatto di raccogliere tecnologie che per alcune aziende sono ormai considerate ferro vecchio e obsolete e magari a pochi chilometri di distanza o magari a migliaia di chilometri di distanza ci sono alcuni soggetti che non hanno i soldi neanche per comprare attrezzature usate. Ecco che il banco ha trovato questa idea di mettere in comunicazione quelli che hanno tecnologia obsoleta per loro e quelli invece che quella tecnologia è oro per altri. Ecco, come funziona materialmente? Così chi ci ascolta, magari qualcuno viene l'idea di dare una mano. Chiamano il BITEB? Dicono abbiamo delle attrezzature che non ci servono più? Certo, funziona in questo modo. Le imprese e le aziende, quando devono cambiare il loro parco di apparecchiature informatiche, possono tranquillamente scrivere a www.bitep.org, dove sostanzialmente possono mettere a disposizione le attrezzature che loro buttano via e che addirittura secondo le leggi vigenti dovrebbero spendere per smaltire, mentre invece i volontari del banco informatico si recano presso i locali dell'azienda e se le apparecchiature hanno quel minimo di efficienza necessaria vengono ritirate a spese del BITEB e vengono portate nei nostri laboratori. Quindi voi avete dei tecnici, anche questi volontari? Sì, questa è l'altra cosa molto bella del BITEB. Accanto a questa opera nata quasi come un servizio semplice, oggi ruotano circa 150 volontari, cioè persone o studenti universitari o addirittura pensionati che magari nella vita hanno lavorato nel settore informatico, che mettono a disposizione il loro tempo per venire a rendere un'apparecchiatura obsoleta assolutamente buona e perfetta per essere usata da chi la tiene. Invece parliamo dell'altro aspetto, quello medico delle attrezzature ospedaliere. Idem come sopra, quando l'ospedale deve smaltire chiama voi, e voi come fate a collegarvi con gli ospedali africani piuttosto che... Ma qui funziona in questo modo, in questo periodo come leggiamo tutti i giorni sui giornali c'è grande necessità di fare efficienza nel settore pubblico, questo è un modo molto semplice, abbiamo delle apparecchiature che gli ospedali, in questo caso lombardi, cambiano perché ne escono di nuove, più tecnologiche, più raffinate, che fanno diagnosi più precise, ma queste attrezzature cosa servono? Allora su questo la Regione Lombardia ha colto questa opportunità e ha fatto un bando di concorso per poter dare a una Ollus la possibilità di gestire tutte queste apparecchiature, ritirarle, valorizzarle, controllarle e poi metterle a disposizione di tutte quelle Ollus dei paesi in via di sviluppo che invece anche un mammografo o una macchina biomedica, magari semplice da noi, lì viene molto, utilizzata. C'è un esempio bellissimo, sì. Abbiamo mandato in America Latina un mammografo e un dottore dell'America Latina ci ha chiamato dicendo guardate, io ancora oggi dopo tanti anni faccio le diagnosi dei tumori al seno soltanto con la mia capacità, non ho nessuno strumento e quindi quando io mi accorgo che c'è un tumore ormai è troppo tardi. Ecco, un mammografo che qui non viene più utilizzato, là è uno strumento fondamentale per salvare delle vite. Quanto tempo è che esiste il banco, il BITEB? Il banco esiste dal 2003, è un'associazione di volontariato. Quindi. E dal 2007 circa abbiamo cominciato anche la parte biomedica. Raccogliamo ogni anno circa 2500 computer e abbiamo fatto ad oggi circa 100 progetti di ospedali rifatti in paesi in via di sviluppo con nuove attrezzature utilizzate provenienti da ospedali lombardi. Bene, è stato chiarissimo e complimenti perché la vostra è un'attività veramente incredibile. Come fare per mettersi in contatto con voi? Lo vuole ripetere per chi ci ascolta? Sì. Guardi, la cosa migliore è usare il sito internet. Siamo il banco informatico, usiamo tutte le tecniche che l'informatica ci mette a disposizione. Chiunque abbia o desiderio di donarci delle attrezzature o necessità di avere delle attrezzature va sul sito www.biteb.org, ripeto www.biteb.org, e trova tutte le istruzioni in un caso e nell'altro. Grazie direttore, in bocca al lupo e a presto. Arrivederci a lei e a tutti quanti. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci in studio con Ferry Boat. Abbiamo sentito del banco alimentare, del banco per le attrezzature tecnologiche e per le strutture biomediche, una storia assolutamente toccante, non meno toccante quella che adesso vi facciamo ascoltare, che riguarda il banco farmaceutico. I farmaci raccolti sono passati dai 15.000 del 2001 agli oltre 320.000 del 2009, passando da un valore commerciale di poco più di 90.000 euro a oltre 2 milioni di euro. A contribuire a questo salto le quasi 3.000 farmacie che hanno aderito e che erano solo 250 nel 2001. Ma i dati che colpiscono di più sono altri. I volontari del banco farmaceutico erano 800 e oggi sono 10.000. I bisognosi assistiti erano 90.000 e nel 2009 sono stati 400.000. Beh, insomma, sono numeri che parlano da soli. Il presidente del banco farmaceutico Paolo Gradnik, assolutamente esaltanti per il significato che hanno. Ma direi più che esaltanti, che vanno a gratificare un'iniziativa che si rivolge alle persone attorno a un tema che è fondamentale, perché dopo l'alimentazione credo che la salute sia il tema che giustamente ci sta poi a cuore. Ha ragione, ha usato un termine che aveva una premessa che era solo mia, però nella mia testa, cioè esaltante, perché comunque la dimostrazione che in questo paese ci sono ancora dei valori, voglio dire, in questo senso esaltante, cioè c'è gente che fa il volontariato e lo fa senza nulla a pretendere. Il banco farmaceutico è toccante, dicevo prima di introdurla, anche per la modalità con cui questa raccolta avviene, che non è, come dire, meccanica, vada a raccogliere e distribuisco, ma c'è un ruolo attivo della gente. Assolutamente sì, e giustamente, come diceva lei, quello che ci sorprende ogni volta è come anche in un periodo, insomma, oggettivamente di problematicità economica per molte famiglie, anche quest'anno la donazione da parte dei cittadini verso chi ne ha bisogno di farmaci è aumentata dell'8%. Ecco, come funziona il meccanismo materialmente? Si entra in farmacia, nelle farmacie dei lenti? Il meccanismo senza dubbio si ispira all'esperienza di altri banchi come quello alimentare, per cui entrando nelle farmacie il secondo sabato di febbraio si trova un volontario del banco farmaceutico che invita ad acquistare un farmaco per metterlo a disposizione di chi ha bisogno proprio di quel farmaco, con alcune particolarità. Infatti il banco farmaceutico è un'esperienza unica, non ci sono altri banchi da cui trarre ispirazione, anzi proprio dall'Italia stiamo esportando questa idea verso altri paesi europei. E quali tipi di farmaci in genere, cioè con quale criterio suggerite un farmaco, l'acquisto di un farmaco piuttosto che altri? Ogni farmacia è associata a un ente che eroga assistenza ai bisognosi e noi preventivamente aiutiamo quest'ente a identificare chiaramente il proprio bisogno farmaceutico, per cui questo ci consente di proporre ai cittadini una raccolta assolutamente mirata che va a rispondere per il 95% proprio ai bisogni specifici. Non abbiamo praticamente nessun tipo di rimanenza, il che è molto concreto e consente di veramente toccare con mano l'aiuto che si dà a chi ne ha bisogno. Il ruolo delle farmacie, Presidente, va sottolineato, cioè il fatto che siano disponibili è un altro elemento di grande forza del banco farmaceutico. Le farmacie non solo sono disponibili, ma contribuiscono attivamente donando la parte, diciamo, del loro margine commerciale a favore del banco farmaceutico. Questo ci consente in realtà di andare a moltiplicare la raccolta proveniente dai cittadini sia con le donazioni delle farmacie sia con le donazioni dell'industria, per cui i numeri che lei ha citato in realtà nella logica annuale del banco farmaceutico vanno per fortuna dei bisognosi più che nostra moltiplicati. Bene, complimenti Presidente per l'attività e speriamo che questa sensibilità non venga mai a diminuire. Arrivederci Presidente. Grazie molte dell'ospitalità. Dopo il banco alimentare e il tecnologico, il farmaceutico, adesso un altro segmento del sistema economico, il banco si chiama Building. Banco Building Onlus nasce da un'idea, l'idea del banco alimentare, come quella del banco alimentare che ritira alimenti in eccedenza per distribuirli a chi ne ha bisogno. Noi abbiamo pensato che tutto questo si potesse applicare anche sul mondo profit e quindi sui materiali non deperibili. Ritiriamo materiali non deperibili da aziende che ne hanno in eccedenza o che le vogliono donare, ma in realtà normalmente che ne hanno in eccedenza, quindi arredamenti, materiali edili, serramenti, cementi, vernici, qualsiasi cosa, macchinari che non sia deperibile, prendiamo conoscenza di questo e lo mettiamo in contatto con il mondo no profit che invece ha bisogno di questi materiali. Questo è il Banco Building, abbiamo con noi il direttore Silvio Pasero. Salve direttore. Buongiorno. Certo che, adesso piccola premessa, poi torniamo alle sue competenze, viene voglia di allungare questo elenco di banco, no? Di banco alimentare, farmaceutico, perché in effetti si è sempre pensato al bisogno primario, non si era mai, fino ad oggi almeno probabilmente per chi ci ascolta, come dire, avvertito che potrebbe funzionare anche in tanti altri settori, per esempio il vostro, quell'edilizio, quello del costruire, quello delle strutture, dei banchi, delle sedie, perché no, questa è anche solidarietà di primo livello, vero direttore? Sono d'accordo con lei, sì, sì. L'idea mi è venuta una sera perché io nella vita normale faccio il consulente finanziario e un mio cliente che fa il costruttore di piastrelle, aveva una partita di piastrelle vecchie passate di moda e mi disse: io c'ho lì una partita di piastrelle, se tu sai a chi posso donarle, io ben volentieri. Così è nata l'idea, perché l'idea è stata quella di rendere stabile, non episodica, la possibilità da parte degli imprenditori di poter donare questo materiale, perché mi sono detto: se funzionano per gli altri banchi, perché non farla funzionare anche per altri banchi? Ecco, e qui a questo punto poi ha pensato bene ai banchi, alle sedie, ai tavoli, ai giocattoli, ai libri, ai quaderni, praticamente tutti quelli che sono i prodotti sostanzialmente, che non sono alimentari o farmaceutici, che non sono inquadrati, diciamo così, negli altri banco di cui abbiamo parlato, voi raccogliete di tutto e come lo distribuite, come funziona poi? Allora, una piccola precisazione: noi in realtà non raccogliamo nulla, ma noi funzioniamo unicamente da matching, cioè da un lato noi abbiamo costruito una banca dati delle richieste delle opere di carità, dall'altra parte cerchiamo aziende che siano disposte per le più svariate ragioni a donare questi materiali e li mettete in contatto. E li mettiamo in contatto. Noi non abbiamo un metro quadrato di magazzino, la operiamo just in time, abbiamo delle opere che ci hanno fatto delle richieste, abbiamo delle aziende che sono disponibili a donare, la fatturazione avviene direttamente dall'azienda donante all'azienda all'opera ricevette. Perché dice fatturazione? Perché comunque bisogna perché le aziende hanno bisogno di avere uno scarico di magazzino attraverso delle procedure che la legge prevede, perché se no queste aziende continueranno ad avere al loro magazzino questi beni, mentre invece li hanno donati gratuitamente innanzitutto le aziende hanno anche dei vantaggi, uno fra questi vantaggi è quello dell'esenzione dell'IVA e altre detrazioni di tipo fiscale, per cui dietro c'è sicuramente una volontà di carità, di fare del bene, ma comunque le aziende hanno anch'esse dei loro vantaggi, uno di questi è un vantaggio fiscale, risolvono dei loro problemi di magazzino, azzerano i costi di trasporto alle discariche o agli inceneritori, azzerano tutti i costi di smaltimento. Insomma, questo non è male che le aziende abbiano un loro tornaconto, perché li stimola a farlo. Sì. Senta, ma voi come fate invece a filtrare chi fa richiesta, cioè che non siano, come dire, furbastri anziché bisognosi? Allora, innanzitutto noi con la modalità che abbiamo scelto è quella di operare solo da aziende a enti, mai privati. Questo ci consente un controllo su chi riceve e anche l'azienda donante non avrà mai il dubbio del chissà dove va a finire, saprà, c'è una tracciabilità continua e permanente perché sa sempre dove a chi dona e potrà anche ad anni di distanza andare a vedere dove sono finite le sue piastrelle, le sue porte o quant'altro. Per cui no, intanto se ci sono delle onlus, opere di carità, facciamo una verifica. Una verifica. Mm-hmm. Certo, ovviamente. Questo è chiaro. Bene, bene, grazie. Direttore, grazie. Lei è l'ultimo della serie di Banco, la ringraziamo, facciamo i complimenti anche a lei e alla prossima occasione. Ringraziamo anche chi ci ha ascoltato, ovviamente redazione Anita Panizza, in regia Paolo Corleoni. Vi ricordo che su www.radio24.it potete riascoltare le puntate di Ferribot. A risentirci.